La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Settimana con moltissime novità al cinema, anche perché poi parte il Festival di Cannes per 12-13 giorni, non si parlerà d'altro in termini cinematografici, quindi si salvi, anzi esca chi può subito e poi se ne parlerà appunto durante la kermesse della Costa Azzurra, di cui cominceremo a accennare anche durante questa trasmissione, perché un paio di personaggi che saranno con noi sono prossimi proprio al Festival di Cannes, ma dicevo, settimana nella quale c'era da fare selezione, noi l'abbiamo fatta, cerchiamo di capire quali sono i film prescelti per essere ospitati nella nostra trasmissione nei nostri titoli di testa. Notte folle a Manhattan per Tina Fey e Steve Carell, nuove star della comicità americana. Scambio di identità e guai a non finire. A volte uscire dalla routine matrimoniale può essere pericoloso. Il terremoto e i potenti. Torna Sabina Guzzanti che con Dracula ci porta a telecamera a spalla fra le tendopoli e le macerie di una città ferita per raccontarci il grande affare della ricostruzione. È il fenomeno dell'anno, L'uomo fiammifero di Marco Chiarini, film per ragazzi a bassissimo budget che ora, premio su premio, si è imposto all'attenzione del grande pubblico. Ne parliamo col regista. Giardiniere o carabiniere? Sono le vite possibili del protagonista di Due vite per caso, uno sliding doors all'italiana socialmente impegnato. Protagonista femminile, Isabella Ragonese. Io non capisco che cosa vuoi. Io voglio ballare tutte le sere. E voglio togliermi la maglietta e voglio farmi tre maschi insieme. Tre tutti insieme? Ma è un incubo. Ti giuro che è uno dei sogni ricorrenti più stressanti che ho. Mi sembra che ormai ci conosciamo troppo bene. Sono sempre le stesse conversazioni, lo stesso tran tran. Fare sesso nella stessa posizione due volte a settimana. Voi fate sesso due volte a settimana? Sì, molto poco purtroppo. Sì? Poco? Per questo sono sorpresa. Sì, perché Claire e Phil Foster, avete sentito Claire, appunto Tina Fey, coppia dei sobborghi newyorkesi, non fa sesso due volte alla settimana, ma molto, molto meno spesso. Anche il sesso è schiacciato dalla routine. E allora, che c'è di meglio di una bella notte folle nella rutilante Manhattan? Ecco che i due provinciolotti piombano nel cuore della grande mela alla ricerca di un posto in un ristorante alla moda. Lì scatta l'equivoco. Sbattuti fuori perché privi di prenotazione, i Foster si fingono i Triple Horn che, sbirciando il registro, una prenotazione ce l'avevano, ma hanno sbagliato coppia. I Triple Horn sono due sbandati inseguiti da una banda di criminali che risponde al pericoloso boss Joe Miletto. Quando i Foster se ne accorgeranno sarà troppo tardi, la loro notte folle a Manhattan è già iniziata. Claire Foster? Oh, Brooke Grant. Wow, cioè è pazzesco rivederti così all'improvviso. Sto facendo un flashback di tutte le case viste. Ne abbiamo viste un sacco. Siamo in un brutto guaio e abbiamo davvero bisogno d'aiuto, lo so che... Perché no? Entrate pure. Accomodatevi. Siete fortunati a essere vivi. Hai ragione, Claire, io starei alla larga dai poliziotti. Ecco perché speravamo che tu potessi aiutarci. Beh, il minimo che possa fare. Ricordo che sei stata paziente con me tutti quei lunghi viaggi. È stato un piacere. E questa casa è veramente la casa giusta per te, scommetto che gradiscono anche le donne. Sì, me la cavo abbastanza. Sono sicura che te la cavi molto bene. La scena che avete sentito vede protagonista anche un macissimo Mark Wahlberg, che con Mark Ruffalo, James Franco, è uno dei tanti big hollywoodiani che si sono prestati a ruoli minori in questo film. Man mano che la notte si stinge nelle prime luci dell'alba, Phil e Claire riscoprono se stessi e i motivi che li tengono legati da così tanto tempo. Notte folle a Manhattan è una commedia orologeria che mischia azione ed equivoci al genere slapstick, puntando tutto sui due attori protagonisti. Steve Carell e Tina Fey, irregolari a Hollywood, superstar nell'intrattenimento TV di qualità dal Saturday Night Live in poi, l'imitazione di Tina Fey della svampita Sarah Palin ha già fatto il giro del mondo, dirige Shawn Levy che dopo i successi di Una notte al museo è ormai una certezza nelle commedie sentimentali e potremmo dire notturne, visto che anche questa volta tutto si svolge di notte. Sentiamo cosa racconta dei suoi due attori Steve Carell e Tina Fey. I think that Steve is more known in Europe than Tina. Sì, credo che Steve Carell sia più conosciuto di Tina Fey in Europa, ma negli Stati Uniti lei è probabilmente l'attrice più in auge nella commedia. Spero che questo film contribuisca a farla conoscere al mondo intero come quell'enorme talento che è. È una donna vera, ma senza vanità. E poi è intelligente, ironica, passionale. E penso che lei e Steve siano proprio una coppia fantastica. Sono sicuro che si ammazzano! Non voglio che i bambini vadano a vivere con tua madre! È odiosa! Aspetta, ci vedi? Sì! E questo era Notte folle a Manhattan, forse l'unico film che può mettere in dubbio, anche se ne dubitiamo anche noi, la leadership in classifica di Iron Man 2, che è partito come si prevedeva col botto anche nel box office italiano, 3 milioni e mezzo di incasso nel primo weekend, prima posizione, una partenza anche migliore rispetto al primo Iron Man. Secondo posto per Oceani 3D, e questa è abbastanza una sorpresa, segno che forse in questo caso ha funzionato proprio il messaggio del 3D, perché c'erano state anche abbastanza polemiche su questo film fatto di immagini straordinarie, polemiche legate al doppiaggio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Partenza lenta invece per Cosa voglio di più di Silvio Soldini, che con Pierfrancesco Favino era stato nostro ospite la scorsa settimana qui alla Rosa Purpurea, un film d'autore di grande spessore che ha portato al cinema solamente rispetto alle aspettative ovviamente un totale di 692.000 euro di incasso. E poi Scontro tra titani, Matrimoni e altri disastri, ma vogliamo soprattutto andare a sottolineare al nono posto la resistenza di un piccolo film italiano, un road movie. Anche qui avevamo avuto l'ospite Rocco Papaleo, il suo regista e uno degli attori protagonisti, Basilicata Coast to Coast, quasi 2,5 milioni di incasso, ed è davvero uno dei fenomeni di questa fase della stagione. Un anno e un mese fa il terremoto che ridusse L'Aquila a un cumulo di macerie, un anno dopo il cinema sbarca nella città abruzzese ferita e lo fa con uno degli esponenti di punta del documentarismo politico italiano, Sabina Guzzanti, che dopo Viva Zapatero e Le ragioni dell'Aragosta va con la sua telecamera lì dove poche TV si sono avventurate. Dentro i disagi, le promesse mancate, lo smarrimento di un popolo che ha perso la sua città e un pezzo di se stessa. È Dracula, il film di Sabina Guzzanti, scelto dal Festival di Cannes, che si apre la prossima settimana, e che proprio per questo film non sarà visitato dal ministro della cultura Bondi. È un'offesa all'Italia, ha detto il ministro. Noi abbiamo visto il film in anteprima, voi lo potete vedere da questo fine settimana in una delle 100 sale che lo proiettano. Un documentario alla Michael Moore potremmo definirlo, una parabola narrativa che analizza con documenti e interviste quello che è accaduto dopo le scosse dell'aprile 2009, per raccontare qualcosa di più ampio, un sistema che a un certo punto, è la tesi della regista, ha voluto imporre un'idea di ricostruzione a scapito del parere degli stessi terremotati. È stato fatto un'ordinanza di polizia civile che diceva che nei campi non solo non si poteva somministrare alcolici, ma non si poteva somministrare caffè e Coca-Cola per non eccitare i terremotati. Cioè io quello che contesto è questo paternalismo oppressivo. Sì, girava una circolare nelle tendopoli durante il periodo di permanenza dove c'erano dettate le linee guida per la dieta dello sfollato, del terremotato, dell'attendato, diciamo. E non si poteva somministrare Coca-Cola, caffè, alcolici. Caffè, ma tu l'hai letta questa circolare? Io l'ho vista buttata sul tavolo del, li chiamavano capocampo, quindi anche questo termine è un po'. È una delle tante interviste a sindaci, giornalisti, politici locali, cittadini delle tendopoli che animano il dibattito del film. Ci sono quelli che, soprattutto anziani, per mesi hanno vissuto negli anonimi alberghi della costa, al motto fate finta di essere in vacanza, e anche quelli contenti della casa ricevuta dallo Stato, delle forniture di pregio, del mobilio, dei portafiori griffati protezione civile. E come sempre, dove c'è aria di abusi, c'è anche un'opposizione che non sa o non riesce a far sentire la sua voce. L'opposizione, qui come nel resto del paese, capisce sempre tutto quando è troppo tardi. La tenda del Partito Democratico è sempre chiusa, tutti i mesi dell'anno, a tutte le ore del giorno. Qui come nel resto del paese, i cittadini che protestano sono soli. Sabina Guzzanti in collegamento con noi alla Rosa Purpurea. Sabina, mi sembra che in Dracula ci sia un ragionamento che va oltre la questione del terremoto e che abbraccia in maniera più ampia tutta la questione del declino dell'Italia. C'è un paese che esce dal tuo film un po' con le ossa rotte, moralmente e politicamente. Secondo te si tratta di un declino irreversibile? Questo dipende da noi, penso, non lo so se è irreversibile. Sicuramente voglio dire, abbiamo fatto tanti passi indietro, ci siamo sicuramente fermati, però insomma, dopodiché non c'è niente di irreversibile in generale, penso. Certo, è un percorso per ripristinare la civiltà, direi, neanche la democrazia, c'è tanto lavoro da fare ed è un lavoro soprattutto culturale e per adesso non si capisce come si può fare, ma insomma sicuramente vivendo ci verranno delle idee. Quali difficoltà hai riscontrato per girare nel centro storico dell'Aquila, distrutto, nelle tendopoli? Sappiamo che sei andata con una troupe ridotta al minimo, telecamera a spalla. In quali problematiche ti sei imbattuta? No, insomma, qualche problematica la racconto anche nel film. Insomma, il fatto che comunque, essendo piuttosto ridotte le libertà di espressione, non è comunque facile filmare, insomma ci sono un po' di problemi che comunque io ho vissuto in misura ridotta, perché per fortuna, essendo famosa, conosciuta, sono anche più temuta e quindi mi rompono le scatole meno di quanto non facciano con giornalisti locali o con documentaristi meno conosciuti. Poi la difficoltà, insomma, è capire, parlare con le persone che sono sempre più diffidenti, litigiose, però insomma c'è anche d'altra parte molta voglia di raccontare, ci vuole molta pazienza, capacità di ascolto e insomma si sviluppa per forza, è sicuramente un'esperienza che mi ha fatto crescere. Il terremoto un anno dopo, si può dire che sia un po' passato di moda e che non si possa più sfruttare l'attenzione mediatica che aveva creato? Questo è fisiologico, insomma non è una cosa che ha a che fare con, è un difetto un po' di tutta l'informazione, quella che comunque quando c'è una tragedia, ma anche un'inchiesta, è oggetto di attenzione, fino a un certo punto poi viene superata da un'altra e non si sa più come le cose vanno a finire. Sicuramente anche quando ho cominciato questo documentario me lo sono posto il problema che un anno dopo probabilmente del terremoto non gli sarebbe importato più niente a nessuno, però in realtà, proprio perché è stato un fenomeno mediatico questo terremoto, proprio perché è diventato il simbolo dell'efficienza di questo governo, in realtà è stato sotto i riflettori molto più a lungo di quanto normalmente una calamità naturale stia sotto riflettori in questo paese. Ecco, quanto questa storia è figlia della leadership politica di questo momento, di questo periodo, di questa fase dell'Italia, del cosiddetto berlusconismo? Forse è questo che ha fatto un po' arrabbiare anche il ministro Bondi, che parla appunto di un film di propaganda. Ecco, invece, quanto sono gli anticorpi degli stati in queste situazioni a venire fuori in un certo modo? Cioè il fatto di voler dare un certo tipo di impostazione, di accesso alle informazioni stesse in situazioni di emergenza come questa. Voglio dire, sarebbe una storia diversa in un altro momento storico, o bene o male il cliché di questi momenti è sempre lo stesso? No, secondo me è una storia molto diversa. È chiaro che il cliché della corruzione sarebbe stato lo stesso, anche se ovviamente l'autoritarismo accentua e favorisce la corruzione in modo macroscopico, perché comunque da noi la corruzione è diventato un fenomeno veramente palese ed evidente ovunque ti giri. Anche questa è una cosa impressionante lì all'Aquila, cioè non c'era un argomento solo, dalle forniture degli alimentari delle tendopoli alle macerie a nulla che non fosse comunque di cui la gente non dicesse: qua si sono fregati i soldi per questo, qua c'è quest'altro, dai bagni chimici alle tende stesse, ai condizionatori, non c'era un solo elemento di questo terremoto che non fosse oggetto di chiacchiere e di sospetto. Alcuni dei sospetti, quando poi ci si è messo qualcuno a lavorarci, qualche giornalista eccetera, si sono anche verificati, rivelati fondati. Certo. Quindi la domanda iniziale era se è tipico del berlusconismo. Sì, ci sono. È proprio tipico del Berlusconi, è proprio tipico dell'autoritarismo, la depressione, la propaganda che diventa così opprimente, ridicola e anche violenta, lo sfruttamento così cinico di tutto è tipico di qualsiasi forma di autoritarismo. Grazie a Sabina Guzzanti per essere stata con noi. Grazie a voi, davvero, grazie per questo spazio e a presto. Allora, questa era il racconto di Sabina Guzzanti, le sue parole su Dracula, film che andrà al Festival di Cannes, come anche sentiremo più tardi un'altra nostra ospite raccontarci una presenza al Festival di Cannes. Noi a questo punto apriamo però la prima finestra sul nostro DVD Game e come sempre ogni settimana vi facciamo ascoltare una traccia di un film misterioso almeno fino a quando non lo indovinerete. Qui siamo di fronte ancora una volta a un Blu-ray game, quindi si vince il più bravo e veloce degli ascoltatori del sabato e della domenica il titolo nella versione ad alta definizione Blu-ray. Sentiamo. Sono le ore 21:32. Devo farlo ora. Ho veramente bisogno di stendermi in branda. No, subito. Finché ce l'hai ben presente. Ok, luogo capanna. E i giorni cominciano a confondersi tra loro. E questo era il primo dei pezzi, dei frammenti di questo film misterioso che dovrete indovinare. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo per eventualmente riceverlo, ovviamente, alla rosapurpurea@radio24.it. Più tardi avremo un altro paio di possibilità, insomma un film sul quale sicuramente ci sarà molto molto interesse. E a questo punto noi andiamo avanti prendendoci un attimo una piccola pausa rispetto al tema delle uscite dell'attualità cinematografica italiana per dare una sbirciata a quello che succede oltreoceano, a quali sono le novità che invece stanno arrivando al cinema negli Stati Uniti, con la nostra rubrica Trailer USA che ci racconta appunto tutte le novità a stelle e strisce. Oggi la nostra Michaela Bellisario ci racconta un film che si intitola Harry Brown, di cui la critica americana ha parlato in maniera entusiasta, paragonandolo per intensità del racconto a Gran Torino di Clint Eastwood. Protagonista assoluto è un attore che si presenta da solo, Michael Caine, nei panni di un poliziotto che combatte da solo un episodio di grande ingiustizia. Michaela, a te il racconto. Sì, ciao Franco. Michael Caine è davvero intenso in questo film uscito alla fine di aprile negli Stati Uniti e di cui per ora si ignora l'uscita italiana. Michael Caine, Harry Brown, da qui il titolo del film, è un ex marine di 76 anni che vive in un quartiere di Londra ad alta densità criminale. È appena rimasto vedovo e l'unico amico da cui trova conforto, con cui si consola, è Leonard. La vita però, purtroppo, si sa, può cambiare in 5 minuti. Un giorno Leonard assiste per caso a un pestaggio di alcuni baby gang e interviene, e la rappresaglia sarà durissima. Ma l'uomo verrà ucciso. E in questo passo del trailer sentiamo la polizia dare la notizia a Harry Brown, che scoppia a piangere. Mr. Harry Brown, police. I'm sorry to have to tell you, but Mr. Leonard Atwell is dead. He was assaulted in the pedestrian walkway. Ecco, da questo momento per Harry Brown inizierà il lungo cammino della vendetta. Deciderà di farsi giustizia da solo, dichiarerà guerra alle baby gang, entrando poco a poco nelle loro organizzazioni. Le scene sono molto intense, estremamente violente e crude. Tra le tante sentiamo adesso quella in cui Harry si presenta nell'appartamento di un gruppo di drogati in cerca di un'arma per uccidere. Tell me what happened with Leonard. Who's Leonard? He's the man you and your mates murdered. E insomma, Sir Michael Caine è una garanzia, Harry Brown è una parabola sulla vendetta, ma laddove il buon vecchio Clint Eastwood, che abbiamo citato prima di Gran Torino, immolava se stesso piuttosto che usare la forza, qui Sir Michael si scatena in una guerra personale come solo un ex berretto verde sa fare. Bene, grazie Michaela Bellisario, alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. Terza parte della Rosa Purpurea che si apre con un'altra proposta italiana. Lo hanno definito uno sliding doors in salsa romana, ma del resto si dice questo di tutti i film che nascono sotto l'insegna del cosiddetto what if. Cosa sarebbe accaduto se non avessimo preso quel treno, non fossimo tornati indietro a casa perché avevamo dimenticato qualcosa, avessimo detto sì anziché no a quell'offerta di lavoro. La storia di tutti noi è piena di snodi, di possibilità prese al volo o lasciate cadere, che hanno inevitabilmente deviato il percorso della nostra vita. Qui è un tamponamento a rappresentare lo snodo, ma non un tamponamento qualunque, un tamponamento con la macchina di due poliziotti in borghese molto molto arrabbiati. La vita di Matteo, menato a dovere in una notte folle in questura, è sconvolta. Fare causa, rivendicare i propri diritti o tornare alla propria attività di giardiniere? E se quel tamponamento non ci fosse stato, se la macchina si fosse fermata a 10 centimetri da quella dei poliziotti, che vita sarebbe quella di Matteo? Tu che prendi? Eh? Tu che prendi? Ma tu sei quel ragazzo che è venuto con quello che si è tagliato il dito? Sì. Allora come sta? Gli hanno messo 3 punti. Ancora non ho capito come ha fatto. Non riusciva a aprire la lattina e niente, ha spinto giù con una chiave. Ah, oh, un genio! Però le macchie di sangue le ho dovute pulire tutte io. Grazie. Mi spiace. Allora che ti do? Una bionda. Che avete, dei panini? No, veramente panini non ne facciamo. Patatine? Quello del sacchetto. Non lo so, Se no posso darti questo. Era la mia cena, non ho fame. Comunque sono Sonia. Ciao. Matteo, lo so. E Sonia Isabella Aragonese, che è qui con noi in collegamento alla Rosa Purpura, protagonista femminile di Due vite per caso. Ciao Isabella. Ciao, ciao a tutti. Benvenuta, ciao. Benvenuta qui su Radio 24. Grazie. Partiamo da te. Hai vissuto mai nella tua vita uno sliding doors, uno snodo che se affrontato diversamente ti avrebbe cambiata? Ma è difficile calcolarli, penso che al giorno ne capitino abbastanza. Io per mio carattere, insomma, ho sempre difficoltà ad ammettere che sia il caso che porta a fare le cose, perché sono un pochino, mi piace guidare il mio destino, però ammetto che per esempio anche avere fatto cinema per me è stato un po' sliding doors, perché non avevo mai pensato nella mia vita di farlo, e quindi diciamo che un assistente di Virzì mi aveva notato in uno spettacolo teatrale che non volevo neanche fare, e quindi forse quello lì è stato, se non avessi fatto quello spettacolo non avrei mai fatto cinema. Isabella, è una generazione che tira avanti? Ma io amo molto questo monologo, secondo me è proprio un monologo che rappresenta una generazione vista comunque da, come se fosse mio padre, no? dai nostri genitori, che un pochino si disperano di questa cosa, almeno chi ci vuole bene pensa magari alla tua età, già io avevo 2 bambini, lavoravo, insomma io sono sempre la ragazzina, sembra che ho 15 anni, invece ormai vado per i 30, e penso che racconti un po' una generazione che vive alla giornata, non ha una prospettiva, quindi pensa all'oggi, perché se dovesse pensare a un futuro, non parliamo poi di un futuro per le generazioni prossime, cioè non c'è neanche, diciamo, l'utopia di dire lascio un mondo migliore, ma anche proprio per se stessi manca un'idea di domani, quindi si tira avanti, oggi l'ho scampata, domani vediamo, quindi penso racconti questo. Senti, settimana scorsa parlavamo di Alba Rohrwacher per il film di Soldini e dicevamo che per lei è stato l'anno della consacrazione assoluta, anche tu però non scherzi, mi sembra, perché dopo Tutta la vita davanti c'è stato Viola di mare, 10 inverni e alle porte Cannes con il film di Lucchetti, oltre a questo film appunto Due vite per caso che è nei cinema da questo fine settimana. Cosa ti aspetti dal festival più importante del mondo? Come vivi questo momento? Ma mi aspetto di... sono molto curiosa di vedere come sarà accolto il film, che è un film che io ho già visto e amo tantissimo. Penso che sia un film molto potente, molto crudo nella sua verità, e quindi sono curiosa, anche se già essere presa in concorso penso sia, voglio dire, che insomma qualcosa che è piaciuto, perché non penso sia una cosa facile. Cannes cerco di non pensarci, perché se no me lo ricordano tutti, quindi è difficile non pensarci, così non mi innervosisco e soprattutto lo prendo con gioia, perché so che comunque è un festival, diciamo che in Europa è quello più affascinante, più da cinefili, quindi sono... poi quest'anno devo dire non è stato l'anno della consacrazione, vabbè, Alba ha cominciato anche prima di me, quindi diciamo io sono ancora un po' all'inizio, però devo dire che tutti i film che ho fatto sono andati a dei festival, quindi ho avuto la fortuna di girarli un po' tutti, sono stata a Venezia, a Berlino, a Roma e adesso a Cannes, quindi poi potrò fare un dossier, un paragone fra tutti i festival. Ti useremo come inviata. Tra l'altro il film a Cannes passa il giorno del tuo compleanno, insomma auguri anche in questo senso. Il giorno dopo, sì. Ecco, allora grazie Isabella Aragonese, in bocca al lupo grazie per Cannes e per Due vite per caso. Era Isabella Aragonese qui alla Rosa Purpurea per parlare di Due vite per caso. Noi abbiamo invece da farvi sentire la seconda traccia misteriosa del Blu-ray Game di oggi. Quindi hai pensato di venire quassù, nell'ambiente più ostile all'uomo, senza nessuna preparazione, e capire come andava? Ma chi ti ha detto il cervello? Rilassati e cerca di svuotare la mente. Non è difficile per te. Va a farti fottere il più presto possibile. Iniziare Link. Iniziale Link, avete indovinato? La rosa purpura cocciola radio24.it per questo Blu-ray game di un film che immagino a questo punto essere un po' meno misterioso. Ci sono delle notti che invece di dormire fino al mattino mi sveglio senza motivo. E poi lui arriva. Allora io inizio a pensarti. Piano piano delle voci, come i suoni di un vecchio giradischi, iniziano a parlarmi. Raccontano la storia di tutte le cose che ho lasciato. Qualsiasi desiderio, se vedi l'uomo fiammifero, si avvera. Ma devi essere buono. Quando mi viene in mente, penso ad una cosa soltanto. Vero. All'uomo fiammifero. E queste erano alcune parole, alcuni momenti tratti da L'Uomo Fiammifero, il film di Marco Chiarini di cui vogliamo occuparci adesso. Marco è già in collegamento con noi, ciao! Eccomi qua, salve a tutti! Eccoti ciao. Qua, eccoti qua, reduce dalla notte dei Davide Donatello, immagino. Esatto, sì, esatto. Ancora con il cuore diciamo che batte un po' più forte del normale. Tra l'altro due nomination in questa kermesse, gli Oscar italiani come vengono definiti, tra l'altro ricordiamolo per la cronaca, con la vittoria come miglior film dell'Uomo che verrà di Giorgio Diritti, una grande affermazione per un film di uno straordinario e rigorosissimo regista, e poi un altro grande maestro del cinema italiano come Marco Bellocchio, che ha portato a casa ben 8 David per il suo vincere. Ma come è andata invece alle tue due nomination? Niente, noi siamo non abbiamo vinto in nessuna delle due categorie, ma diciamo il fatto già di esserci per noi è stato un successo inimmaginabile fino a poco tempo fa. A quel punto, quest'ultimo mese, poi, come dire, non che ci abbiamo creduto, però abbiamo lottato per vincere comunque, perché essere lì è stata comunque una vittoria, ma a quel punto volevamo comunque lottare. Senti, per noi giornalisti, diciamo così, essere quando i film si possono inserire dentro degli schemi è meglio, perché ovviamente sì, tu ti fai tutte le tue gerarchie, le tue cose. Ecco, L'Uomo Fiammifero è un film che esce totalmente dalla possibilità di essere incapsulato negli schemi, anche nei criteri di distribuzione. Un film che gira da parecchio tempo fra internet, cinema locali e situazioni di questo tipo. Allora ti chiedo in due parole di raccontare cosa ti ha spinto a realizzare questo film, che lo ricordo è un bellissimo e delicatissimo affresco di un'estate di un ragazzino. Siamo all'inizio degli anni Ottanta, in campagna, lui, il padre, una madre che non c'è, e questo uomo fiammifero che dalla fantasia diventa qualcosa di estremamente reale, qualcosa da inseguire addirittura notte per notte per questo ragazzo, qualcosa che forse si dissolverà solamente nel momento in cui il ragazzo avrà superato la cosiddetta linea d'ombra. Ecco, penso di avere riassunto un po' quello che voleva essere il senso del tuo film. Come è nata questa idea? E dove lo può vedere la gente? Che mi sembra a questo punto il tema importante, perché il film è molto bello e ha avuto grandissimi riconoscimenti di critica. Allora, innanzitutto, ecco, ti ringrazio per avermi dato il destro per ricordare dove possono vederlo, appunto. Innanzitutto all'Arcade di Melzo, uno dei più bei cinema addirittura d'Europa, è possibile vederlo. Poi per avere i luoghi esatti, i cinema esatti, conviene andare sul sito www.uomofiammifero.it, e lì ci sono le altre 7 sale dove in questo momento il cinema è in programmazione. Voglio ricordare che il cinema è uscito il 19 febbraio ed è stato per quasi 3 mesi a Nuovo Cinema Aquila, e ha girato per molte rassegne, festival, e adesso sta riuscendo in un formato digitale in 2K, lo stesso formato con cui escono i film in 3D, per capirci, per intenderci, quindi in molte sale in digitale lo stanno proiettando. Sì, infatti, anche perché, scusa se ti interrompo Marco, ma è importante dire che anche perché, pur essendo un film a piccolissimo budget, assolutamente indipendente, ha proprio negli effetti visivi, artigianali finché vuoi, ma molto molto riusciti, uno dei suoi elementi di forza. Infatti, esatto, perché ci hanno fatto intendere la cinquina finale dei David. Ma perché? Perché noi abbiamo lavorato sugli effetti visivi come se se avessimo avuto 12 anni negli anni 80. Quindi negli anni 80 non c'era il 3D, non c'era nulla di tutto quello a cui siamo abituati adesso con Avatar, la Pixar, eccetera. Ma ecco, noi abbiamo lavorato come se avessimo avuto un computer potentissimo nel 1982 e avessimo avuto 12 anni. E quindi questo sono poetici, semplici, piccoli, delle cose piccole che però vanno a toccare delle corde della nostra immaginazione, della nostra infanzia. Penso che questo forse è il segreto, cioè la spiegazione che mi do per cui molti hanno apprezzato questo nostro lavoro. Grazie, grazie allora Marco Chiarini. L'Uomo Fiammifero, vi ricordo, uomofiammifero.it per vedere dove potete andare a vedere questo piccolo e bellissimo film italiano per tutta la famiglia, ma non solo per l'intrattenimento di tutta la famiglia, ma anche per così pensarci un po' sopra e forse rivederci anche quando eravamo piccoli. Grazie Marco. Grazie a voi. Ma io dico una cosa, non li frequenti quelli della tua età, quelli che sono andati a scuola con te. No, quelli mi stanno antipatici, mi annoiano, preferisco stare in camera al buio da solo con Giulio. Bravo, e allora resta a casa, dammi una mano di sotto con gli animali, fa come cacchio da pare. Di noi insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte come sempre entra in casa vostra e vi racconta un po', vi consiglia soprattutto cosa vedere fra DVD, Blu-ray e anche televisione. Televisione in chiaro, questa volta gli amici della del settimanale Film TV hanno preparato un po' una chicca, perché per la prima volta un film di grandissimo potenziale commerciale e popolare arriva in chiaro su un canale tipico del digitale terrestre nella sua prima visione. Andrea Fornasiero di Film TV. Ciao Franco e un saluto agli ascoltatori di Radio 24. Questa settimana per la prima volta segnaliamo un film di cielo, la TV digitale terrestre legata a Sky, che inizia con questo venerdì alle 21.10, per cui in prima serata, un ciclo di film in larga parte in prima visione. Si parte con Spider-Man 3 di Sam Raimi, terzo e ultimo capitolo della trilogia del regista dedicata all'Uomo Ragno. Avrebbe dovuto essercene un quarto, perché Raimi aveva chiesto appunto di proseguire, ma aveva anche richiesto un maggior controllo sulla sceneggiatura e gli è stato detto di no, quindi la saga prossimamente ripartirà con un Uomo Ragno adolescente. In questo terzo capitolo Peter Parker affronta i suoi demoni, scopre che un grande potere non porta solo a grandi responsabilità ma anche a grandi tentazioni, e affronta due avversari, e questo è un po' il problema del film, perché il personaggio di Venom fu più o meno imposto dalla produzione e creò un certo sovraffollamento in fase di sceneggiatura. Rimangono comunque alcune sequenze molto spettacolari e almeno una scena da davvero d'antologia, la genesi dell'uomo sabbia che fa il possibile per raggiungere quest'anello che sprofonda tra i grani, ed è insomma una sequenza abbastanza toccante. Per oggi è tutto, a risentirci la settimana prossima. Grazie ad Andrea Fornasiero di Film TV, ricordiamo allora l'appuntamento, Spider-Man 3 in prima visione in chiaro sul digitale terrestre, su cielo, venerdì 14 alle 21.10. Terza traccia del film misterioso di oggi. Allora dove andiamo? Ci allontaniamo dai cattivi. Non ho intenzione di lasciare a Selfridge o Quaritch la gestione nei minimi particolari. C'è una sala Link mobile nel C-36 da cui possiamo lavorare su in montagna. Possiamo lavorare su in montagna, la Rosa Purpurea @radio24.it per giocare e vincere, provare a vincere, se non l'avete già fatto ovviamente, il Blu-ray di questo film. Ovviamente soluzione e vincitori la prossima settimana. Adesso vi facciamo invece ascoltare una clip di una delle tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. La stampa ne è già al corrente. È quello che vorremmo evitare, signore. È ovvio. Lo scenario peggiore? Il panico, un'ondata di panico, signore. Infatti. Non prendere questa storia sul serio, vero Holmes? Eh beh, insomma, qui c'era lo svelamento del cognome Sherlock Holmes. Questo è il film che con cui abbiamo fatto giocare la settimana scorsa. I più bravi e veloci sono stati Marco Menchinelli di Monterotondo, provincia di Roma, e Mona Amadin di Ponsacco, vicino Pisa, e loro riceveranno a casa il Blu-ray di questo straordinario film. Bello il film, bello anche il Blu-ray, l'edizione in home video preparata dalla Warner, e di cui ci parla il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, l'edizione di Warner è superba, ricordo c'è una versione singolo DVD anche doppio, e c'è questo Blu-ray che offre sicuramente la versione più completa, perché oltre al disco in alta definizione presente il DVD, c'è una digital copy per scaricare via internet e visionare il film su player multimediali. Nell'edizione Blu-ray ci sono veramente tanti extra, tra cui segnalo sicuramente la visione del film immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione e ancora i segreti della ricostruzione della Londra tardo vittoriana, come è stato reinventato il personaggio di Sherlock Holmes. In ultimo un collegamento BD Live per scoprire ulteriori extra se il lettore Blu-ray è collegato a internet. Rimaniamo in un mondo di grande fantasia, con un film che è uscito lo scorso anno, porta una firma prestigiosa, quella di Terry Gilliam, e si intitola Parnassus. Sentiamo. Ieri sera eri così sconvolto e ho pensato ti servisse un po' di speranza e che magari ti andasse di fare una piccola scommessa. Oh no, ora basta, basta, è finita. Oh, andiamo, non è mai finita. Coraggio, che hai da perdere? Potresti vincere. Potresti salvare tua figlia. Che ne dici del primo che acciuffa cinque anime? Cinque anime? Niente trucchi? Niente imbrogli? Niente imbrogli. Allora sì, affare fatto. Il dottor Parnassus, divenuto immortale dopo aver vinto una scommessa col diavolo, girovaga per il pianeta a bordo dell'immaginario con questo carrozzone itinerante all'interno del quale chi lo desidera si incammina verso un mondo fantastico. Per evitare di perdere l'anima e il corpo della figlia Valentina, pretesa dal diavolo, Parnassus stabilisce appunto una nuova scommessa col Signore degli Inferi. Il primo dei due che riuscirà a sedurre cinque anime avrà vinto su Valentina. Il regista Gilliam ha costruito questo nuovo mirabolante viaggio fantastico, allo stesso tempo un omaggio all'attore Heath Ledger, la cui scomparsa durante la lavorazione portò a una nuova sceneggiatura in cui il suo personaggio prese il volto degli amici Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law. L'edizione di Mondo è notevole, anche in questo caso DVD singolo, doppio, ma anche Blu-ray, di qualità è assolutamente ineccepibile. Per gli extra segnalo l'introduzione del regista, vari approfondimenti sulla realizzazione, tra cui vari focus dedicati al compianto Heath Ledger. Film nel quale Gilliam ci offre spunti di grande genialità, come sempre, forse un po' troppo rutilante, come spesso accade anche a questo regista eccessivo, al quale non si può sempre chiedere di essere con i piedi per terra. Ascoltiamo invece l'ultima proposta di questa settimana, Tutta colpa del paradiso. Ho fatto 5 anni di galera per rapina a mano armata. Quando sono uscito sono tornato a casa, ma la mia casa non c'era più perché l'avevano comprata gli americani. Poi sono passato in mezzo a 500 barboni punk che mi guardavano e mi cantavano. Barboni punk? Barboni punk. Poi ho incontrato una donna terribile e mi ha detto: io riconosco quelli come lei, se ne vada. E allora ho capito che solamente venendo in paradiso mi poteva tornare il sorriso. Sì, ma io ti ho fatto una domanda seria. Perché non ci credi? Ma va, tu scherzi sempre. Il giovane Romeo Casamonica esce dal carcere dopo aver scontato 5 anni per rapina. Fuori pare non esserci più nulla per lui, nessun amico, la casa perduta, la moglie l'ha lasciato e il piccolo figlio Lorenzo è stato adottato. Il suo unico obiettivo diventa quindi quello di ritrovare il figlio che ora vive presso la baita Paradiso in Val d'Aosta. L'incontro con i genitori di Lorenzo e il bambino sarà foriero di nuovi sentimenti e divertenti situazioni. Primo film nei panni di regista e attore per Francesco Nuti, recitando al fianco di Ornella Muti, da Cecchigori, un'edizione da collezione doppio DVD. Il film gode sicuramente di ottima qualità. Per gli extra sono presenti un documentario di 50 minuti che ripercorre la carriera di Francesco Nuti, due interviste al regista Giovanni Veronesi e al produttore Gianfranco Piccioli. Ricordo che il film è disponibile anche in Blu-ray. Grazie Claudio, noi col Cinema Italiano chiudiamo questa parentesi dedicata all'home video. Ciao, alla prossima settimana. A presto, un saluto. E con Claudio Poffi noi chiudiamo anche la nostra trasmissione. Appuntamento a sabato prossimo alle 18, domenica alle 15 se ci ascoltate in replica. Un saluto da Franco D'Assisti.